2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, sono le 15:32 minuti, oggi c'è Pietro Lacorte che ci aiuta nella parte tecnica di questo programma. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci in vari modi, il nostro numero verde, Facebook, la email, gli sms, poi ve lo ricorderò nel corso della nostra trasmissione. Partiamo da una breve considerazione sull'agenda digitale, perché il decreto semplificazioni appena approvato dal governo prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico istituisca una cabina di regia, non mi piace molto questo termine, però per farci capire, per attuare la famosa agenda digitale. Da un certo punto di vista è una buona notizia. Quando parliamo di agenda digitale, va ricordato, parliamo di una serie di azioni per favorire lo sviluppo di un'economia digitale, quindi non solo la costruzione delle infrastrutture a partire dalla famosa oramai rete nazionale in fibra ottica, che potremmo anche definire il substrato sul quale costruire servizi e prodotti. Sicuramente l'obbligo di usare la rete internet per i rapporti tra cittadini, aziende, pubblica amministrazione è un primo tassello dell'agenda digitale, quindi qualche cosa si sta muovendo ed è questa una buona notizia. Questa settimana la Commissione europea ha presentato un regolamento che rinnova tutte le normative nazionali sulla privacy. Rinnoverà. È sostanzialmente l'idea della Commissione su come vanno tutelati i nostri dati personali. Ne abbiamo parlato con Luca Bolognini, che è presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Beh, intanto diciamo che è un passo importante, nel senso che la Commissione europea ha esercitato l'iniziativa legislativa. Quindi dopo 2 anni di trattative con stakeholders, con parti interessate, politiche, economiche, finalmente è venuto fuori questa proposta di regolamento, e quindi è una proposta ufficiale e, come diceva lei, diventerà poi legge dopo aver superato i voti del Parlamento e del Consiglio, quindi ci vorranno dei mesi sicuramente. Però è un testo che già indica molto, perché insomma 2 anni di trattative significano tanto, ed è un testo che rivoluzionerà la privacy in Europa, probabilmente è un testo che vorrebbe rivoluzionare la privacy nel mondo, cioè vorrebbe mettere l'Europa davanti a tutti i paesi del mondo come apripista di una nuova filosofia della protezione dei dati personali. Ci sono molti elementi positivi che tuteleranno di più i nostri dati, nostri come cittadini, come consumatori, come utenti della rete per esempio, e quindi sarà un regolamento importante perché ci darà più poteri di controllo sui nostri dati. Sarà un regolamento che introdurrà il principio della cosiddetta accountability, cioè in sostanza chi tratta i dati, le aziende, gli enti, dovrà dimostrare di averlo fatto rispettando tutte le misure di sicurezza, rispettando tutte le regole di questo regolamento, che ricordiamo sarà applicabile direttamente in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Cioè non dovrà essere recepito, quindi non rischia l'Italia di recepirlo come fa spesso in ritardo. In ritardo, esattamente. No, sarà esattamente come una legge nazionale in tutti gli stati membri. Ha dei difetti, indubbiamente, questa regolazione, che forse sono dei difetti di ambizione, cioè punta forse troppo in alto. Mi riferisco ad alcune regole estremamente eurocentriche, per cui per esempio la normativa europea si applicherà anche agli operatori extraeuropei se si rivolgono al mercato europeo. Immaginiamo banalmente un sito internet americano piuttosto che australiano che sia raggiungibile e accetti di fornire servizi anche online, immaginiamo un motore di ricerca a utenti italiani o a utenti francesi. Ecco, questo sito dovrà essere rispettoso di tutti gli adempimenti della privacy europea, e questo è un po' difficile da immaginare. Cioè, da un certo punto di vista uno potrebbe dire, beh, è logico che sia così, perché se tu vieni qui a fare business devi sottostare alle regole europee, però lei dice è comunque difficile mettere in pratica questa previsione perché stiamo parlando di internet. Esattamente, cioè servirebbe un trattato internazionale per riuscire a rendere questo tipo di norma veramente applicabile. Un'altra è quella sul diritto all'oblio, che in pratica si riferisce al fatto che noi possiamo chiedere a un social network, a un sito internet o a chiunque altro che i nostri dati vengano rimossi. È naturale che questa è una regola che, detta così, sembra ovvia, oggi non lo è, non è così ovvia, ma un domani, anche quando questa regola sarà in vigore e applicabile, viene da chiedersi quale sarà l'effettivo rispetto di questa regola da parte, ipotizziamo, di un social network che si trova a 10.000 chilometri di distanza dall'Unione Europea. Poi ci sono altre notizie che sono molto buone, quella per esempio sulle notificazioni delle violazioni di dati personali. Detta così è un po' incomprensibile, in realtà cosa significa? Significa che se un'azienda che tiene milioni di dati di consumatori subisce per esempio un attacco e perde i dati di questi consumatori o le vengono rubati, questa azienda è tenuta ad avvisare subito le authority e in molti casi i consumatori i cui dati sono stati rubati. È successo anche nel corso del 2011 e voi potete capire che un conto è sapere che il proprio numero di carta di credito è stato rubato da quel server di quella grande azienda entro poche ore, un conto è saperlo 7-8 giorni dopo, quando la notizia esce sulla stampa. Quindi questo sarà un altro tipo di regola che dovrebbe tutelarci maggiormente. Sì, ammesso che le aziende si accorgano di aver subito un attacco. ammesso che si accorgano. Esatto, naturalmente però ci sono delle previsioni che dovrebbero far rispettare verosimilmente comunque queste nuove norme, perché si passa ad un approccio, lei prima citava l'antitrust, ma più tipo l'antitrust, anche come sanzioni, per cui si arriva fino al 2% del volume d'affari di un'azienda come sanzione possibile, e iniziano ad essere numeri che possono preoccupare anche gli amministratori delegati di grandi gruppi. Sì. Le faccio una domanda per il mercato. Immagino che tutto ciò abbia per le aziende un costo abbastanza elevato, poi dipende da che tipo di business io sto facendo, però se io sono un'azienda mi devo preoccupare di tutte queste cose. Allora, esistono dei servizi, prevalentemente parlo di online, mondo online, che ti forniscono, diciamo, la privacy chiave in mano? Cioè io mi rivolgo a uno studio di consulenza o a un'azienda e mi viene offerto il pacchetto per essere in regola con queste nuove norme, o comunque in generale? Ma in generale la risposta è no, nel senso che ogni caso specifico necessita di una consulenza ad hoc, e quindi invito a prendere con le pinze quelle offerte standardizzate. Questo accade già oggi, ma appunto ogni azienda è fatta in un certo modo, originale, particolare, con determinati trattamenti di dati, quindi sarebbe quanto mai rischioso. Sì. Posso dire che se aumentano le regole da seguire, questo soprattutto per le start-up può essere un ulteriore aggravio? Allora, proprio in questi giorni, col decreto semplificazioni, il governo ha abolito il DPS, l'odiatissimo documento programmatico sicurezza, che era uno degli adempimenti a cui erano tenute le PMI, anche tutte le imprese e gli enti. Si passa, e si passerà a maggior ragione con il regolamento, a quel principio dell'accountability che citavo prima, e cioè di fatto il titolare, l'azienda o l'ente dovranno dimostrare, avranno l'onere di provare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per proteggere i dati. Quindi si bada più alla sostanza, e con il regolamento questo sarà accentuato, si baderà più alla sostanza che alla forma, ma per badare alla sostanza poi in realtà si arriverà a dover dedicare parecchie risorse alla compliance, all'attività di adempimento delle regole privacy. Quindi sì, ci sarà a maggior ragione dopo questo regolamento un aggravio dei costi per le imprese. E poi c'è un altro elemento che invece preoccupa gli operatori tecnologici. In questo regolamento viene introdotto il principio della cosiddetta data protection by design, cioè il fatto di porsi il problema di come proteggere i dati già nella fase di progettazione della tecnologia, di disegno della tecnologia. E questo viene visto molto male dai produttori di tecnologia, perché per loro è un'invasione di un campo quasi sacro, il garage della Silicon Valley, dentro al quale dovrebbe entrare il regolatore, in particolare la Commissione europea, che potrà stabilire standard tecnici anche di dettaglio per le tecnologie, dicendo la tecnologia deve nascere con questo criterio per rispettare la privacy dell'utente. Ecco, tutto questo viene guardato con diffidenza, perché da un lato rischia di limitare l'innovazione, proprio il momento innovativo, e dall'altro rischia di creare un mercato un po' doppio, un mercato della tecnologia europea, e gli extraeuropei potrebbero faticare a entrare in questo mercato che richiede standard particolari per le tecnologie. Questo è molto interessante. Tornando al cittadino, all'utente di internet, possiamo comunque dire che questo regolamento concretamente, effettivamente ci protegge un po' di più, o comunque crea delle regole tali per cui io, quando vado su un sito internet, magari capisco molto più facilmente che fine fanno i miei dati, perché a volte, anzi direi spesso, molti pubblicano fotografie, video o comunque anche propri pensieri personali senza saper nulla di dove poi questi pensieri, foto o altri dati finiscano, o dell'uso che ne verrà fatto. Sì, si rafforzerà moltissimo il principio di trasparenza, quindi ci dovranno dire dove vanno i dati, qual è la filiera di soggetti che per esempio li trattano per nostro conto, in questo caso noi siamo l'azienda che sta trattando i dati dell'utente. E la cosa interessante è che vengono stabiliti diritti specifici che l'utente potrà esercitare. Prima citavo il diritto all'oblio, che è appunto il diritto a essere rimossi, perché oggi come oggi, se mi cancello da un social network, i dati vengono comunque tenuti dal social network, normalmente congelati, ma vengono conservati, invece io avrò il diritto di farli cancellare effettivamente. Ma c'è l'altro diritto che viene introdotto dal regolamento, alla portabilità dei dati. Tradotto, voglio cambiare fornitore, voglio cambiare social network, voglio cambiare fornitore di servizi email, questo fornitore deve consentirmi con due clic, molto facilmente, di portare tutti i miei dati che conservavo sui suoi sistemi, immaginiamo la rubrica dei miei indirizzi, dei numeri di telefono, presso un altro fornitore. Sembra anche in questo caso una banalità, come spesso accade leggendo le norme privacy, ma è una banalità poco applicata e che quindi necessitava di una innovazione normativa. Ed era Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy. Visto che, come avete sentito, queste norme entreranno in vigore tra qualche mese, perché ci saranno dei passaggi tecnici, devono essere approvati dal Parlamento, anche dal Consiglio europeo, avremo modo di ritornare sul tema, perché è un tema molto importante, molto interessante. Adesso c'è la viabilità, riprendiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, sono le 15:48 minuti, il nostro numero verde per parlare con noi. Nella seconda parte parleremo di firma elettronica, cercando di rispondere ad una domanda molto semplice, e capirete che anche la risposta sarà molto, molto semplice. È possibile firmare un documento, un'azione che noi facciamo molto spesso? Quante firme facciamo durante una settimana? Beh, fare questo senza la carta è possibile, come? Lo scopriremo tra poco. Abbiamo parlato poco fa dell'Unione Europea, della privacy, ma l'Unione Europea, sempre questa settimana, per mano della Commissione, ha firmato l'ACTA. Che cos'è l'ACTA? È un trattato internazionale per la tutela della proprietà intellettuale promosso all'esterno degli enti governativi e dove l'industria ha un peso molto forte. Un trattato che punta ad ottenere su base volontaria un impegno dai governi che firmano per combattere in modo efficace la contraffazione anche su internet. Allora, di questo si parla dal 2007, le trattative però sono sempre state fatte in modo molto riservato, per lungo tempo non se ne sapeva nulla. Molte associazioni internazionali che si battono per la tutela della libertà in rete ritengono che questo accordo metta a rischio la libertà di espressione su internet. Un forte segnale di dissenso è arrivato anche da chi ha condotto i colloqui per l'Unione Europea, il deputato francese Kader Arif, parlamentare europeo, che si è dimesso in segno di protesta e ha detto: questo trattato può avere importanti conseguenze sulle vite dei cittadini. Il Parlamento europeo dovrà ratificare la firma che è stata fatta a Tokyo questa settimana. Per protestare contro questa firma di questo trattato internazionale, Anonymous ha fatto qualche attacco. Sapete che questo collettivo di migliaia di hacker o anche altri sostenitori su internet, e c'è stata anche una forte opposizione in Polonia. Non so perché la Polonia si è scaldata molto su questo, lodevolissimo, ma non è accaduto negli altri paesi. Insomma, bisognerebbe parlare un po' più spesso. Adesso parliamo di una tecnologia che permette di usare il microfono di uno smartphone come un sensore. Allora, è molto interessante. Immaginate di emettere un suono non udibile dalle nostre orecchie, che quindi non ci disturba, ma che invece il microfono del cellulare può sentire. Potremmo ad esempio mandare dei messaggi, dei segnali, dei codici per dare comandi, raccogliere dati. Naturalmente serve un'apposita applicazione in grado di decodificare il segnale. Facciamo un esempio. Siamo in un supermercato, ci viene detto: scarica questa applicazione sul tuo smartphone per ricevere ad esempio delle particolari offerte. Il supermercato potrebbe diffondere questo segnale acustico tramite il sistema audio interno. L'applicazione dello smartphone visualizza un messaggio, cioè riceve l'audio, visualizza un messaggio che ad esempio mi dice: se vai al banco carne c'è lo sconto del 30% fino alle 16, quindi ancora per una decina di minuti. Un altro esempio potrebbe essere un codice sonoro emesso durante uno spot pubblicitario. Sullo smartphone appare il messaggio: ti è piaciuto questo spot pubblicitario? Insomma, ci sono vari metodi. È una specie di QR code, ma utilizzando l'audio. Con questa tecnologia, la società di ricerche Ipsos ha presentato un sistema per raccogliere i dati di ascolto della radio in Italia. Un sistema di questo tipo, basato sui cosiddetti meter, esiste già negli Stati Uniti, anche in paesi più vicini come ad esempio la Svizzera. La particolarità è che in questo caso viene utilizzato lo smartphone per raccogliere questi dati. Ne abbiamo parlato con Marco Barbaccia di Ipsos. Quello che noi facciamo è che introduciamo a livello di trasmissione del segnale radiofonico un codice che l'uomo non può sentire. Questo codice viene poi misurato in maniera puntuale dalla app che gira in continuazione sul telefonino in background, quindi senza infastidire l'utente del telefonino per quanto riguarda gli altri utilizzi del telefonino, dal fare la chiamata, andare su Facebook, mandare email. Gira costantemente in background e riesce a raccogliere questi codici che sono inseriti a livello di stazione, quindi riesce a identificare il portatore del telefonino quale radio sta ascoltando. Stiamo parlando di radio esterne, non radio che si ascoltano sul telefonino, quindi in che modo questa applicazione riesce a capire qual è la radio che noi stiamo ascoltando? Allora, la misurazione è fatta con due criteri diversi. Uno è l'utilizzo del microfono. Il telefonino ha il suo microfono, quindi se io ascolto la radio in macchina o a casa la radio sul mio comodino, il mio telefonino che è con me riesce a misurare la radio che sto ascoltando. Se io invece utilizzo il tuner o una app di streaming, il sistema cosa fa? Legge praticamente l'uscita e la rigira automaticamente dentro nel microfono. E quindi praticamente è come se ascoltassimo quello che uno sente nelle cuffie. Senta, questo è un sistema che potremmo definire nuovo per l'Italia. In realtà il concetto sul quale voi vi basate non è nuovissimo, giusto? No, il concetto di encoding è un concetto che c'è da anni, viene utilizzato per vari motivi, per varie logiche, per vari sistemi di misurazione, non solo per la radio, viene utilizzato per la TV. Nielsen in America fa tutta la misurazione della TV, dell'audience televisiva, come Auditel in Italia, fa tutta la misurazione basandosi sull'encoding. Quindi viene inserito un codice, è una metodologia diversa dalla nostra, loro hanno il brevetto del loro sistema di encoding, noi abbiamo il brevetto del nostro sistema di encoding, ma è un sistema che garantisce una misurazione puntuale e oggettiva senza errori di misurazione di quella che è la stazione. Quindi diciamo che è un sistema utilizzato nel mondo anche per altre cose, non solo per la rilevazione degli ascolti, sia audio che video. No, viene utilizzato anche per esempio per la gestione dei diritti di programma, nel senso che alcuni programmi gli si viene inserito questo codice per la gestione dei diritti di copyright. Sì. Quindi se ben capisco, ad esempio, se io inserisco, sono una TV o una radio, inserisco questo codice, che se io copio quel programma e lo ritrasmetto senza averne i diritti, è facile scoprirlo. Sì, utilizzando il sistema dell'encoding si può fare. Senta, tornando alla rilevazione della radio, che cosa riuscite a capire voi raccogliendo i dati che vengono generati da questa applicazione sullo smartphone? Ricordiamoci che questa app gira costantemente sul telefono, quindi noi riusciamo a capire esattamente quali stazioni radio la persona sta sentendo, e questo può essere un ascolto guidato dall'utente del telefonino, per cui sono io che ho il telefonino e decido di ascoltare questa radio perché voglio, piuttosto che invece io salgo, vado in un caffè a bermi un cappuccino e ci sto un quarto d'ora perché voglio fare due chiacchiere col mio amico, e che c'è a questo punto una radio nel background che suona e io la sento, però non so che radio sia, il telefonino, misurando il codice, riesce a misurarlo. Quindi riesce ad ascoltare tutta la radio che ascolto io. In più noi misuriamo tutti quelli che noi definiamo i parametri di compliance, quindi io so se il telefonino è con me perché riesco a sapere se lo sto usando, riesco a sapere se sto utilizzando la tastiera del telefonino, riesco a sapere se il telefono è in movimento perché utilizzo il giroscopio all'interno del telefonino, quindi riesco a capire se il telefonino è su un tavolo lasciato lì oppure se è attaccato in tasca mia o nella borsa di una signora o così via. Senta, potenzialmente una cosa del genere può restituire a chi fa indagini, come ad esempio nel caso vostro, e poi a cascata ai clienti vostri, dati di ascolto, indagini in tempo reale. Ecco, fino a che punto può essere precisa? Perché stiamo parlando di una cosa che è collegata ad internet, e quindi io ogni secondo potrei sapere che cosa sta facendo il mio campione, quali radio sta ascoltando, nel caso della radio. Potenzialmente sì, potenzialmente noi possiamo arrivare a configurare il sistema ad arrivare a una misura praticamente in tempo reale. Siccome questo comporta dei costi aggiuntivi, bisogna capire qual è il beneficio di avere questo bisogno così tempestivo di domande, di informazioni. Ovviamente se c'è, la tecnologia lo permette. La nostra esperienza è che normalmente su un ascolto radiofonico un dato settimana per settimana è più che sufficiente, però potenzialmente il sistema è disponibile ad andare a un livello di dettaglio praticamente near live. Beh, molto interessante, una innovazione che vedremo se riuscirà a far breccia anche nel nostro mercato. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24 per parlare di firma elettronica. 2024. Seconda parte di 2024, oggi c'è Pietro Lacorde che si occupa della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, sono le 16:05, poco fa abbiamo parlato di una indagine di mercato sull'ascolto della radio in Italia, basato su un sistema tecnologicamente innovativo perché si basa su codici emessi attraverso il suono che noi ascoltiamo alla radio, ma suoni non udibili invece che possono essere compresi dal microfono di un telefonino. Allora, molti ascoltatori scrivono e dicono: ah, è una cosa preoccupante, perché così tutti sanno che cosa stiamo ascoltando. Allora, naturalmente stiamo parlando di un'indagine campionaria, quindi questa cosa quando partirà, perché ancora oggi è solo in fase di progetto, quando partirà questo sistema di rilevazione, sarà scelto un campione, quindi le persone sanno benissimo di avere un'applicazione a bordo del proprio telefonino che fa questa cosa, e uno è disponibile a partecipare alla ricerca. Poi naturalmente gli scenari sono i più vasti, nel senso che ci sono anche sistemi per installare a nostra insaputa delle app sul telefonino, ma di questo abbiamo parlato tante volte a 2024, quindi i nostri ascoltatori fedeli sanno come funziona. Dunque, cioè sanno che può succedere, poi come funziona è un po' difficile da capire. Comunque, a proposito di sensori che abbiamo in tasca a nostra insaputa, di fatto il telefonino è un sensore, e quindi oramai sui telefonini ci sono i GPS installati, quindi è facile comprendere per malintenzionati la nostra posizione, quello che facciamo, eccetera eccetera. Tornando all'indagine d'ascolto, che è molto interessante perché attualmente non esiste un'indagine d'ascolto della radio in Italia, questa che è stata presentata in settimana da Ipsos si chiama Mediacell, è al momento una proposta che potrà diventare operativa quando ci sarà un numero adeguato di partner. Per il momento hanno espresso interesse per questo sistema Radio 24, R101 del gruppo Mondadori e la RAI. Quando ci saranno delle novità, naturalmente saremo i primi a raccontarvele. Vi dicevo nella prima parte che adesso noi vogliamo occuparci di firma elettronica. Se andate in alcuni paesi in Europa, ma soprattutto negli Stati Uniti, quando si firma la ricevuta della carta di credito negli Stati Uniti, oramai molto spesso si firma su un display digitale. E tante volte io mi sono domandato, ma come mai non è possibile fare questa cosa in Italia? Si continua a firmare sulla carta? Saluto Stefano Zanoli, che è direttore di Carta. Zanoli, benvenuto, grazie per essere Buonasera. Con noi. Tu sei direttore o amministratore delegato? Direttore generale. Direttore generale di Carta. Allora, Carta è scritto con la K e il TH. Voi siete una società che si occupa, tra le altre cose, ma lo dico visto che questo è il tema della nostra puntata, di firma elettronica, giusto? Sì. Quindi voi in pratica fate, al mio caso, cioè mi permettete di firmare non sulla carta, sulla ricevuta della carta di credito, ma su un display elettronico. Su un display, su un tablet. Gli elementi della firma elettronica in realtà sono molto semplici. Basta una biro, un tablet e un po' di sicurezza informatica. Una biro però non come quella che ho in mano adesso io. No, una biro che è associata univocamente al dispositivo di firma. Sì, perché devo dire che io sono un grande sostenitore del paperless studio, cioè lo studio senza carta, l'ufficio senza carta. Poi in realtà noi continuiamo a usare la carta perché una parte di scaletta, alcune cose le dico pilotate dal mio cervello, altre me le scrivo un po' prima per avere una traccia, e però sono di carta. Noi stiamo parlando della possibilità di firmare documenti, ed è esperienza di tutte le settimane, senza l'utilizzo della carta, con una particolare penna, un tablet. Tutti i tablet possono fare questa cosa? Non proprio, in quanto la firma, che è un atto unico per quanto riguarda una persona, per la sottoscrizione di un documento, deve essere raccolta con sistemi che ne permettono la chiara identificazione e la difficile falsificazione. Quindi non tutti i tablet sono idonei per raccogliere la firma elettronica. Come dire, non tutti i fogli di carta sono, se un foglio è nero, esattamente, faccio fatica, devo firmare con una, sì, con una penna bianca. Questo è molto interessante, in quanto l'esperienza del cittadino, del cliente dell'organizzazione che si trova a firmare con la penna, sì, e del tablet, deve proprio riprodurre il più fedelmente possibile l'esperienza della firma su carta, al contrario di quello che avviene quando invece si richiede di firmare digitalmente, si dice, un documento. In questo caso il cittadino, il cliente, il consumatore, l'elemento dell'organizzazione deve dotarsi di una, io la chiamo protesi, cioè di una smart card, di una chiavetta USB, sì, quindi una protesi. Ecco. Allora, tu hai toccato un argomento, adesso noi in questa puntata cercheremo di non entrare in dettagli tecnici, perché qua tocchiamo la regolamentazione, quindi le leggi, poi tutta una parte tecnica molto molto molto complicata, quindi noi non scenderemo in questi dettagli tecnologico-giuridici. Però una cosa importante da sapere è che esiste la firma elettronica, che è quella di cui ci occupiamo oggi, che è già una realtà, poi avremo anche un paio di ospiti che ci racconteranno le loro esperienze, e la firma digitale. Qual è la differenza? Sì, la differenza tra i due è che la firma digitale, che è forse la più nota in quanto una legge italiana, addirittura del 1995, la introduce proprio con lo scopo di dematerializzare i documenti, è basata su tecnologie crittografiche cosiddette asimmetriche, sono due parole che si sostanziano poi in dispositivi fisici, cioè la firma digitale non può essere veicolata se non con dei dispositivi sicuri entro i quali c'è questa, ci sono delle chiavi private, delle chiavi pubbliche che vengono usate in un modo opportuno. Quindi, al contrario, le smart card lettori, sì, ben note ai commercialisti, ai notai, ai medici che sottoscrivono le analisi del sangue negli ospedali, eccetera. Al contrario, la firma elettronica è una definizione molto più generica, quindi non presuppone assolutamente l'uso di un dispositivo con un cifrario asimmetrico, ma per esempio nella forma che noi proponiamo è semplicemente una firma con una biro su un tablet. La firma in sé però non sostanzia il documento, perché tu prima giustamente parlavi di un foglio di carta. Noi dobbiamo mettere insieme i due elementi, foglio di carta con il suo contenuto che chiamiamo documento e la firma che apponiamo su quel documento. Noi crediamo che sia molto molto più facile dematerializzare, permettendo di firmare a milioni di persone con la biro su un tablet. Ecco, però a questo punto ti faccio una domanda: se tu mi dici che non tutti i tablet permettono di fare questa firma elettronica, e tra l'altro uno dei più diffusi non lo permette, è un problema o non è un problema? Cioè, diciamo subito, insomma, ad esempio, con l'iPad non si può fare questa cosa. Allora, con l'iPad si può firmare, nel senso che esistono sul mercato diverse biro, ma dipende dal tipo di schermo. Lo schermo capacitivo, per esempio, non è in grado di rilevare la pressione, che è un elemento fondamentale per la biometria che è sottesa al lato della firma, come il foglio di carta. Per riprodurre il foglio di carta bisogna che ci sia anche la sì, diciamo che la firma su carta, naturalmente, quando subisce una contestazione viene periziata e ne vengono dedotti alcune caratteristiche fondamentali. Non tutti i tablet sono in grado di rilevare quelle caratteristiche fondamentali che la perizia può e deve assolutamente attivare per poi mettere la piena sicurezza del documento informatico così sottoscritto. Questo è molto importante. Sì. Quindi, per esempio, noi utilizziamo moltissimo i tablet della Wacom che hanno un sensore e permettono di rilevare la pressione punto per punto della posizione della firma. Quindi poi ti farò una domanda tra poco. E questa è una cosa che difficilmente, almeno in questa prima fase, facciamo in casa. Stiamo parlando di una cosa che noi facciamo in un ufficio che si è dotato di tecnologie per farci fare la firma digitale, sì, quando andiamo in banca, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Prima vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi appunto di firma elettronica. 800 24 0024, il numero gratuito di Radio 24, oppure potete inviarci un sms 349 238 6666. Ci sono altre possibilità elettroniche, digitali, cioè la email 2024@radio24.it, oppure la nostra pagina Facebook. C'è una discussione in atto nella pagina appunto di 2024. Digital News. A proposito di notizie della settimana, tra Apple e Samsung non c'è solo la battaglia nei tribunali, ma anche quella sul mercato. Apple ha ripreso nel quarto trimestre del 2011 la leadership mondiale nelle vendite di smartphone, ma se guardiamo all'intero anno è Samsung il leader di mercato con una quota del 19,9% e 97,4 milioni di pezzi venduti, superiore al 19% della Apple. Secondo i dati diffusi in settimana da Strategy Analytics, al terzo posto c'è Nokia con una quota del 15,8% e poco più di 77 milioni di pezzi. Nel mondo vengono venduti quasi 500 milioni di smartphone su, pensate, un totale di 1,5 miliardi di terminali mobili, quindi sono ancora un terzo gli smartphone. Se guardiamo questo mercato, vediamo che nonostante un calo di oltre 6 punti percentuali, Nokia rimane il principale produttore del mondo della telefonia mobile col 27% del mercato, seguita da Samsung al 21%, terza è Apple con una quota del 6%. Digital News. È interessante vedere che metà del mercato è frammentato tra tanti produttori. Cresce in Italia l'offerta di canali in alta definizione. L'ultimo annuncio arriva da Sky, che da mercoledì prossimo, 1 febbraio, porterà l'offerta in alta definizione a 52 canali, aggiungendo 13 nuove trasmissioni. C'è una ultima notizia, una notizia che riguarda il digitale terrestre. A causa di una decisione del TAR del Lazio, la numerazione automatica dei canali andrà rifatta. Questa è una vicenda che si trascina da mesi, con sentenze contro sentenze, perché una buona numerazione è naturalmente un vantaggio competitivo per le TV. Meglio essere al numero 9 che al numero 44, ad esempio. E questo ordine automatico dei canali, che viene poi riconosciuto dal nostro decoder, è stabilito dall'autorità delle comunicazioni. Ora questa lista andrà rifatta. 2024. Dicevo a Stefano Zanoli, che adesso si mette le cuffie, che è direttore generale di Carta, noi stiamo parlando di un sistema che non faremo a casa nostra col nostro tablet sul computer, cioè stiamo parlando di un sistema che sostituirà, almeno in questa prima fase, poi del futuro non si sa, quello che noi facciamo in un ufficio postale della banca, un ufficio in tanti pubblico, luoghi, in realtà, in tanti luoghi. Cioè noi siamo, il punto è proprio questo, cioè noi siamo chiamati a firmare in tantissime situazioni della nostra vita. Cominciamo dalle banche, che sono il settore che ha iniziato proprio ad applicare questa tecnologia di firma allo sportello. Le banche ogni giorno ricevono nelle proprie filiali centinaia di migliaia di persone, forse milioni di persone, per depositare denaro, prelevare denaro, cambiare assegni e cose di questo tipo. Per esempio, ci sono esempi virtuosissimi in tutta Europa di utilizzo di questa tecnologia proprio per le contabili bancarie, ad esempio, che sono milioni e milioni di documenti ogni anno. Ma i luoghi dove noi firmiamo sono tantissimi. Faccio un esempio: noi firmiamo quando andiamo a comprare una SIM telefonica, firmiamo l'adesione al contratto di telefonia, firmiamo il consenso al trattamento dei dati negli ospedali per la privacy, firmiamo il 730 o la dichiarazione unica per il 5 per 1000, per l'8 per 1000, firmiamo sempre, firmiamo quando andiamo a rinnovare una patente, firmiamo quando andiamo a fare un cambio di residenza. E a questo proposito vorrei proprio dire una cosa: sul vostro giornale oggi viene citato il grosso vantaggio del decreto semplificazione, che dice che 7 milioni di certificati potranno scomparire perché sono trasmessi da un'amministrazione all'altra. Ma io stamattina sono letto attentamente l'articolo, ancora una volta davanti all'ufficiale di anagrafe comunale bisognerà sottoscrivere prima di tutto la dichiarazione di cambio fiscale. Ecco, quel documento sparirebbe assieme a quei 7 milioni di certificati che le amministrazioni si scambiano tra di loro. Allora il circolo diventa veramente virtuoso. Se tu ci pensi, ci sono centinaia e centinaia di situazioni che possono trarre beneficio di questa tecnologia. Dunque, siamo sicuri? Cioè, certamente. Però io voglio capire perché. Allora, naturalmente la firma tradizionale può essere falsificata. Normalmente quando io vado in banca il funzionario della banca sa che io sono quello che sono, quindi non è che mi identifichi con la carta di credito, però con la carta d'identità. Però io vorrei capire se poi, visto che stiamo parlando di una cosa elettronica che entra nei sistemi elettronici, qual è il grado di sicurezza che mi garantisce che non ci sia qualcuno che entra nel sistema e sostituisce in modo elettronico questa firma con un'altra. Certamente. Ammesso che serva qualcosa, perché poi... No, tu hai citato due cose molto importanti. Prima di tutto che l'identificazione del soggetto, per esempio nella filiale bancaria, avviene con i metodi tradizionali. Cioè, se il cassiere ti conosce, non ti chiede la carta d'identità e ti fa firmare su carta. Alla stessa maniera ti fa firmare su un tablet con una biro e ti fa fare una firma elettronica su un documento informatico. Qui nasce poi la sicurezza, due parole molto semplici. La biometria che viene raccolta sul tablet non è disponibile a nessuno. Non è disponibile nemmeno all'organizzazione e nemmeno quindi a un sistema terzo, in quanto sofisticati algoritmi di sicurezza permettono l'inclusione della firma all'interno del PDF, che viene creato per rispettare la normativa italiana, che dice che un documento informatico deve essere integro, immodificabile e sicuro, in modo che nessuno possa riprodurre la firma in un altro contesto. Qua però già entriamo in tecnicismi che però tu dici purtroppo è così. La domanda era cogente. Certo, quindi diciamo che esiste una normativa che ci garantisce la sicurezza di questo sistema. Ecco, Questi sistemi sono già utilizzati, poi sentiremo un paio di ospiti, sì, come vi ho annunciato, che tra poco dovrebbero essere collegati con noi, però questi sistemi sono già utilizzati al di là dell'Italia, dove? Perché io ho fatto l'esempio degli Stati Uniti, insomma negli Stati, sì, Uniti capitano le cose molto prima. Un'esperienza molto interessante è in Spagna, dove ci sono già decine di migliaia di tablet con la biro installate nelle filiali bancarie, nella grande distribuzione, nelle poste. In Italia ci sono degli innovatori, per fortuna, che sono partiti da poco, quindi in conclusione dell'anno scorso è partita la più grande banca italiana, per esempio, con questa applicazione. Che sarebbe? Intesa San Paolo. Sì. Come noto, chiunque entra in una filiale di Intesa San Paolo in questo momento può firmare in questo modo. Noi abbiamo contribuito a sviluppare questa tecnologia, ci sono altre sperimentazioni in corso, alcuni dei tuoi ospiti delle telefonate successive potranno confermare questo. Quello di cui noi stiamo parlando oggi è una grande novità. È una grande novità perché fa il paio con la volontà del nostro paese. Ci sono dei piani di e-government cosiddetti, sì, che attendono da anni attuazione. Questa tecnologia può contribuire in modo significativo a realizzarla. Allora, saluto Marco Carli, che è responsabile della gestione clienti di Telepass. Carli, benvenuto. Buonasera a voi. Dunque, entriamo subito proprio nella vostra, non so se chiamarla sperimentazione, non so se avete già terminato la fase di sperimentazione o è già una cosa che voi utilizzate normalmente. Voi utilizzate la firma elettronica per fare che cosa? Allora, noi utilizziamo la firma sulla tablet, la firma elettronica al momento, in questo momento, per, diciamo, la modulistica non contrattuale. Lei diceva se è una sperimentazione, diciamo sì, ancora siamo, cioè non è ancora una sperimentazione, non è più una sperimentazione perché, diciamo, la sperimentazione è iniziata nel corso dello scorso anno su alcuni dei nostri punto blu. Adesso abbiamo esteso quella modalità operativa a tutti i punti blu di Autostrade per l'Italia, che sono diciamo la gran parte dei punti blu che si trovano sulla rete nazionale, sono 76 rispetto ai 120, perché gli altri sono gestiti da altre società. Quindi in tutti i punti blu di Autostrade per l'Italia è utilizzabile la tablet per la sottoscrizione di modulistica contrattuale. Al momento, per, diciamo, nei casi più frequenti, quindi abbiamo individuato delle operazioni, quelle più frequenti, il cambio targa, la sostituzione dell'apparato, e stiamo estendendo questa modalità operativa, indice, a tutte le operazioni di questo tipo. Ma il punto importante è che abbiamo come obiettivo, circa il primo semestre di quest'anno, di poter includere anche la modulistica contrattuale, quindi passare effettivamente a utilizzare quella firma per tutti i moduli, per tutta la modulistica al punto blu. Saluto anche Walter Facchi, che è responsabile della ricerca e dello sviluppo di UbiBanca. Facchi, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Voi avete 1900 filiali di banca in tutta Italia e per adesso siete partiti da 5 filiali. I più fortunati, potremmo dire, perché partecipano a questa sperimentazione. Voi che cosa fate con la firma elettronica? Ecco, come appunto accennava lei, qualche mese fa abbiamo avviato una sperimentazione in alcune filiali per valutare un po' questa tecnologia. Dove l'abbiamo applicata? L'abbiamo applicata alle operazioni più frequenti fatte allo sportello, ovvero i classici prelievi, versamenti, operazioni abbastanza frequenti che tutta la clientela generalmente fa ogni giorno, utilizzando esattamente la tecnologia che ha descritto poc'anzi Zanoli. Quindi sostanzialmente il cliente, quando si presenta allo sportello, non deve più autorizzare l'operazione apponendo la firma sul modulo cartaceo, ma direttamente apponendo la firma su un tablet. Questo garantisce di fatto l'eliminazione totale dei moduli cartacei. Sì. Dopodiché prego. C'è tutto un processo, diciamo, nascosto al cliente, che gli consente comunque poi di accedere al documento elettronico, perché dato che il cliente esce dalla filiale potenzialmente senza alcun documento, deve avere poi il modo di poterlo recuperare, e quindi questo documento lo può recuperare accedendo al proprio home banking oppure alla propria casella di email. Sì, io ormai mi faccio spedire tutto via posta elettronica perché non voglio avere carta, comunque voglio averne poca. Sentiamo Paolo da Frosinone, buongiorno Paolo. Salve, buonasera. Niente, io qualche settimana fa ho avuto il mio primo incontro con questi tablet in banca. La prima volta che me l'hanno messo davanti, mi sono subito spuntati i punti interrogativi sulla testa. Nel senso, io che cosa sto firmando? Nel senso, non vedo il corpo del documento che mi trovo lì a sottoscrivere. Mi dicono solo, ecco, firma qui. Quindi io come faccio a sapere con tutta la, cioè, manca un po' di trasparenza tutta la procedura. Certo, perché lei dice vado in banca, poi fidarsi delle banche è bene, ma no. Quindi lei giustamente che cosa ha firmato? Oppure che cosa ho firmato? Magari si firma l'operazione giusta che voglio fare, in modo fraudolento qualcuno potrebbe sì, no, però diciamo, sì, no, però diciamo, diamo per scontato che le abbiano fatto firmare la cosa giusta. Che cos'era? Cioè, ha versato dei soldi o ha fatto qualche sì, cosa? No, operazioni normali, cioè versamenti o ritirare un libretto. Sì, ma lei nello specifico cosa ha fatto? Cosa ha firmato? Io niente, mi ha messo il tablet avanti e mi ha detto, ecco, firma qui, c'era una breve descrizione di quello che, sì, che stavo perfetto, firmando ma sul tablet, però è chiarissimo, ma lei ha versato dei soldi? Sì. Perfetto, ecco, questa era la risposta che volevo. Paolo, la domanda è ottima. In effetti anche un altro ascoltatore via SMS ci dice, chi garantisce che non firmo il documento corretto e magari una cambiale? Non so se esistono ancora le cambiali Zanoni. Poi chiediamo a Facchi di UbiBanca. No, ma effettivamente la domanda cosa interessante, è interessante, perché questa ultima battuta ricorre frequentemente negli incontri che facciamo con le varie organizzazioni. Cioè, la prima volta che mettiamo il tablet sulla scrivania, quando facciamo le riunioni, tutti dicono la stessa frase: cosa firmo? Una cambiale, un assegno? Ah sì? Sì, ah. Sì, perché? Ma è un fatto culturale. Allora, noi potremmo tranquillizzare il signore di Frosinone innanzitutto. Innanzitutto l'organizzazione dovrebbe aver preparato su quel display, si può pubblicare il dato dell'operazione che si sta facendo. Quindi uno in piena consapevolezza esattamente firma quello che firmerebbe sulla carta. Quindi ci sono diversi display di diverse dimensioni. Cioè, dice, si vede. Si deve vedere. Si deve vedere. Sentiamo Facchi, che cosa, quando uno entra in una di queste filiali di UbiBank, poi specifichiamo che siamo ancora in fase di sperimentazione, quindi immagino che dobbiate ancora fare un po' di setup. Esattamente. Anche da questo punto di vista. Comunque sì, diciamo che il cliente prima di firmare sul display vede gli estremi dell'operazione che sta facendo, né più né meno come quando precedentemente firmava la distinta cartacea, vedeva gli estremi. Questi dati vengono riportati sullo schermo del tablet e viene posta la firma su quei dati sostanzialmente. Il cliente chiaramente ha comunque facoltà di richiedere una ricevuta cartacea, quindi firmata dall'operatore di banca. In quel caso ha il riscontro esattamente come nella vecchia modalità. Sì, sì. Io la penso molto come Zanoli, cioè c'è un problema culturale. Quando noi facciamo delle cose nella vita normale, ormai ci fidiamo di tante cose. Quando facciamo alcune cose in modo elettronico, digitale, il caso classico è la carta di credito. Io faccio un sacco di cose con la carta, mica che spenda tanti soldi, però quando li devo spendere magari preferisco farlo con la carta di credito. C'è ancora un sacco di gente che dice, oddio, chissà che cosa succede. A parte questa parentesi, Zanoli, questi tablet, perché noi quando parliamo di tablet pensiamo spesso a l'iPad o cose analoghe. Certo. In questo caso di che cosa stiamo parlando? No, di una cosa simile? Bisogna distinguere. Per fortuna esistono due tipi di tablet. I tablet per le postazioni fisse, qual è per esempio una filiale bancaria, un desk di un ospedale, il desk della dichiarazione dei redditi. E poi ci sono dei tablet per la mobilità, quali per esempio ci sono delle macchine molto interessanti prodotti da Samsung, ad esempio, che ha due macchine che sono il Samsung Serie 7 Slate con Windows, quindi che è un tablet Windows touch, tattile, quindi con uno schermo tattile, ma anche con labiro. Quindi noi possiamo coprire con questo tipo di tecnologia le operazioni di firma che si fanno in un ufficio, ma anche quelle che si fanno, per esempio, come tu dicevi prima, a casa nostra. A casa nostra vengono i promotori finanziari, vengono quelli che ci vogliono vendere il contratto del gas, dell'energia elettrica, della telefonia, eccetera, eccetera. Quindi, per fortuna, esistono molti tipi di tablet. A questo proposito, noi ne abbiamo costruito addirittura uno nostro, che è proprio una provocazione culturale. Noi, con la tecnologia Wacom in OEM, abbiamo costruito un block notice, addirittura, con un pezzo di carta ancora, perché c'è sempre il problema di lasciare i pezzi di carta. E dietro c'è un digitalizzatore istantaneo con la medesima tecnologia. Wacom è americana? Wacom è giapponese. Giapponese. È giapponese ed è leader. Effettivamente il nome poteva suggerire. Sì, è leader di questo tipo di tecnologia. Sì. Facchi, voi avete... no, scusa, volevo Carli, chiedere a Carli di Telepass. Avete anche voi avuto questo dubbio all'inizio? Cioè che uno firmasse effettivamente la cosa giusta? Allora, come dicevano anche i colleghi, il collega della banca, ovviamente quando parliamo di digitalizzazione della firma, quello è il dubbio che viene, no? In una qualunque riunione in cui ci sia da decidere se utilizzare o no questa tecnologia, questo è il punto nodale, specialmente se ci troviamo diciamo al cospetto di legali. Però è chiaro che sono d'accordo sul fatto che ci sia questa, un po' questo approccio culturale che in qualche modo ci fa approcciare alle innovazioni tecnologiche con un certo riservo. Però ritengo che il problema anche noi lo stiamo affrontando per la parte contrattuale e appunto stiamo vedendo di far sì che la tavoletta, la Wacom, riesca poi a descrivere ovviamente in maniera sintetica cos'è che il cliente sta firmando in quel momento, perché nel caso dei contratti, come è noto, insomma, le firme da apporre sono più di una, quindi l'invio alla tavoletta di una descrizione variabile in modo tale che poi il cliente abbia l'idea precisa di cosa sta firmando. Sì. Riprendiamo tra qualche minuto, adesso c'è una breve pausa pubblicitaria, sentiremo Giorgio che telefona da Modena e poi vorrei chiedere sia a Carli che a Facchi qualche dettaglio sul risparmio che loro prevedono di avere in termini di carta. Non so se in questa fase è già possibile fare delle previsioni di risparmio economico, ma sicuramente in termini di carta risparmiata sì. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Le 16:36 minuti, questo è 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 0024. In questa puntata ancora non vi ho ricordato la possibilità di ascoltare la nostra trasmissione anche in modalità podcast, un servizio molto interessante, molto comodo, e se ancora non siete abbonati è un... diciamo, utilizziamo questo termine, ma di fatto non è un abbonamento, non si paga nulla, è una cosa gratuita, basta mettere un indirizzo che trovate sul nostro sito internet in un lettore apposito, un programma che gestisce il podcast, come ad esempio l'iTunes, ma ce ne sono tantissimi altri. Quindi in questo modo potete ascoltare la nostra trasmissione anche durante la settimana, anche a pezzetti. Stiamo parlando di firma elettronica, cercando di capire se è possibile, ma lo è già attualmente, firmare un documento senza utilizzare la carta. Ripeto, firme elettroniche, non firma digitale, visto che alcuni ascoltatori via SMS, anche telefonando, ci fanno delle domande che sono inerenti alla firma digitale, che è un'altra cosa, dovremmo fare un'altra trasmissione, ma l'abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione. Giorgio da Modena, buongiorno. Salve, io volevo fare due domande. Una riguarda la firma elettronica, quindi che tipo di valenza ha a livello giuridico e se ha differenza rispetto alla firma digitale. La seconda invece, poi mi può far rispondere a tutti, la seconda invece riguarda un po' le domande che hanno fatto gli ospiti precedenti, per cui che tipo di fiducia un consumatore può avere con una firma fatta su un tablet, e dico solo ad esempio come nelle carte di credito, se ricevesse dopo un minuto un SMS o se potesse, non so, tornare a casa e collegarsi con il proprio codice fiscale e vedere che ha firmato quel documento, forse potremmo essere più tranquilli. Certo, beh, di sicuro lei può andare a casa e vedere il PDF sul sistema di banca via internet, immagino. Giusto Facchi? Confermo. Perfetto. O sull'home banking oppure direttamente nella propria casella di email. Perfetto. Carli, per Telepass è la stessa cosa, cioè io posso andare nella parte di Telepass su internet con la mia password, la user, e entrare e vedere la firma che ho fatto? Allora, al momento no, cioè al momento dopo la firma viene comunque consegnata una copia cartacea al punto blu, ma chiaramente l'obiettivo è quello di eliminare anche quella carta e quindi inviare il documento firmato in posta elettronica al cliente e comunque successivamente anche renderlo disponibile sull'area privata di Telepass Club. Sì, ok. Zanoli, alla domanda che differenza a livello legale c'è tra la firma elettronica, quella che io faccio con la penna sul tablet, e quella digitale, con la smart card? Certo. Allora, entrambe innanzitutto bisogna dire che sono normate, cioè nessuno si sognerebbe mai di abilitare una tecnologia senza avere il diritto associato a questo tipo di tecnologia. Quindi per Giorgio, mi pare, da Modena, i riferimenti sono il codice dell'amministrazione digitale, recentemente il cosiddetto CAD, decreto legislativo 82-2005, qua mi fermo a dire i numeri e basta così. L'altra cosa, invece, la fiducia... Dico a livello... legale, cioè se io vado in tribunale, sì, questa firma che io ho fatto sul tablet ha valore? È un documento informatico firmato con firma elettronica liberamente valutabile in giudizio, mentre la firma digitale ha l'equivalenza della forma scritta. Cioè sostituisce quello che io firmo sulla carta. Esattamente. Dipende, giustamente i nostri ospiti prima hanno differenziato tra tipologie di documenti ed altre tipologie di documenti, i contratti, non sì, i contratti, eccetera. Però mi sembra di capire, poi magari chiediamo conferma anche agli ospiti, ma che tra qualche settimana dovrebbe essere normato completamente. Esattamente, cioè il legislatore italiano ha interpretato al meglio questo tipo di tecnologia e ha modificato appunto il codice dell'amministrazione digitale introducendo la firma elettronica avanzata, cosiddetta, e le norme tecniche che sono già attualmente pubbliche, pubblicate sul sito di DGPA. Sì. Dunque, Ignazio da Ventimiglia scrive un SMS, dice: molto interessante, come la mettiamo con gli anziani? Già sono restia di incassare la pensione sul conto corrente e non in contanti alla posta, figuriamoci firmare con un tablet. Allora, vi potrei fare l'esempio, mio papà non è giovanissimo, ma tutte le cose elettroniche le fa tranquillamente, conti correnti, cioè da sempre. Ma la domanda è interessantissima. Però voglio dire, secondo me non mi sembra che sia un limite molto... No, perché l'anziano, nel caso specifico, fa esattamente la stessa cosa che fa sulla carta. Invece di scriverlo sulla carta, lo scrive su un tablet, ma non cambiamo assolutamente niente. Al contrario, se noi imponessimo e volessimo continuare ad utilizzare la solo firma digitale, all'anziano dovremmo dare una chiavetta USB. Chiedo a questo ascoltatore, è più facile continuare a usare una biro per l'anziano o dargli una chiavetta USB? Sì, adesso mi preoccupo, ho detto anziano, mio papà mi telefonerà subito dopo. Dunque, sono le 16:41, sentiamo Giovanni da Napoli. Buongiorno Giovanni. Salve. Prego. Le volevo chiedere una cosa. Partendo dalla massima buona fede e facendo finta che tutto quello che firmiamo è esattamente quello che noi in quel momento volevamo effettuare, ma chi ci garantisce e in che modo ci si può garantire rispetto ad una persona che fraudolentemente entra nel sito, adopera all'interno della banca la mia firma elettronica per poter poi apporla su N documenti? Quindi replicarla su altri. Esatto, sì. Grazie Giovanni della domanda, è sicuramente molto, molto interessante. Zanoli. Rispondiamo a Giovanni in questo modo. Ci sono degli algoritmi di sicurezza che garantiscono questo. Faccio degli esempi molto concreti. Entra in gioco la crittografia della comunicazione dall'inizio della posizione della firma. La firma, un'altra domanda prima, ha chiesto sulle firme ripetute. Allora, non cambia l'esperienza del cittadino, quindi se in un documento vengono chieste 5 firme, la prima garanzia che noi diamo al cittadino con questa tecnologia è che il cittadino deve rifare le 5 firme. Questo è un postulato importante, significa che ogni firma è associata ad una particolare zona del documento e lì protetta ed inglobata. La garanzia di sicurezza viene seguendo rigorosamente le norme che sono nella legislazione italiana, che richiama delle norme tecniche che sono visibilissime sul sito di DGPA. Sì. Ecco, qua specifico che Zanoli potrebbe anche spiegarlo in termini tecnici, però io stesso, visto che ho chiacchierato con Zanoli più di una volta prima di fare questa trasmissione, ho detto no, qua ci fermiamo, perché altrimenti per spiegare la bontà e la sicurezza di questi sistemi bisognerebbe parlare in modo prima di tutto incomprensibile a me, ma non per i tecnici. Carli, ci vuole dire qualche cosa sulla sicurezza? Anche lei dice che bisognerebbe andare troppo sul tecnico e quindi diventa un po' troppo difficile. No, direi, io non sono un tecnico, però parlando poi con, l'ho fatta lei apposta la domanda. E anche le persone che appunto ci hanno aiutato a introdurre il sistema in azienda, direi che da un punto di vista di sicurezza, il sistema, quindi la tavoletta in collegamento con poi il sistema di gestione, garantisce che quella firma che viene messa in quel momento diventa unica su quel documento e viene a far parte del documento stesso, quindi non c'è l'acquisizione di una firma in assoluto che poi venga replicata su quel documento e quindi possibilmente anche su altri, è proprio un completamento del PDF, del documento che poi risulta un documento immodificabile nel sistema. Io, Zanoli, dirò sicuramente alla mia banca, perché mi fido del funzionario che mi segue, diciamo così, con cui parlo sempre, avete già la mia firma elettronica, tornatela a usare, però giustamente voi dite per garantire la sicurezza non deve essere così, ma per norma, non per capriccio. Dunque sentiremo tra poco Giorgio da Pavia e poi, visto che l'ho anticipata prima, poi non l'ho ancora fatta questa domanda, vorrei capire, perché questo è un altro elemento molto importante, quanto si risparmia e che cosa si risparmia? Sicuramente soldi, ma più sul lato della carta o in altri termini? Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Sono le 16:46 minuti. Walter Facchi, responsabile ricerca e sviluppo di UbiBanca. Che tipo di risparmio voi vedete nell'adozione di questa tecnologia? Ma allora, possiamo rappresentarne almeno tre. C'è un primo risparmio che è l'incremento dell'efficienza, in particolare ad esempio per la ricerca dei documenti pregressi piuttosto che la lavorazione di back office dei documenti. Dopodiché quella che forse si immagina più frequentemente è il risparmio della carta vera e propria, cioè dei moduli. Per quanto riguarda le operazioni che noi abbiamo aggredito inizialmente, ovvero quelle classiche di sportello, prelievi, versamenti, bonifici e quant'altro, per il gruppo UbiBanca valgono circa 50 milioni di moduli annuo. È una massa di carta gigantesca da questo punto di vista e qui i risparmi sono certamente cospicui, perché dobbiamo pensare alla stampa dei moduli, che sono dei moduli chiaramente con delle fincature particolari, la distribuzione in tutte le filiali e la stampa con i dati degli utenti. Tutto questo di fatto scompare. A questi si devono aggiungere poi ulteriori risparmi un pochino più difficili da quantificare, perché sono legati ad altri processi. Esempio, i documenti cartacei, una volta che sono stati firmati dal cliente, quindi nella vecchia modalità, periodicamente devono essere raccolti dalle filiali, trasportati in un centro di stoccaggio dove vengono archiviati e mantenuti in vita per lungo tempo. Pensiamo che il documento minimale deve essere mantenuto almeno per 10 anni. Quando arriveremo sui mutui e quant'altro possiamo arrivare anche dell'ordine dei 50-60 anni e qui ci sono costi estremamente elevati. Questo però il risparmio lo si può ottenere quando l'intero processo viene aggredito e indirizzato. Certo, mi sembra già uno dei punti che lei ha toccato, basterebbe per cominciare a introdurre questi sistemi. Carli, immagino che nel momento di passaggio da questa tecnologia a livello sperimentale a questa tecnologia a regime ci sia però una sovrapposizione, quindi magari forse c'è un extra costo in questa prima fase. Ma direi l'extra costo sicuramente l'introduzione non elimina il flusso di carta, perché noi stiamo parlando della modulistica del punto blu, ma noi abbiamo la nostra rete di vendita dei nostri prodotti, ovviamente molto estesa, e passa per l'appunto attraverso più o meno tutte le filiali delle banche italiane, per cui quell'introduzione non fermerà il flusso di modulistica cartacea. Però chiaramente questo si tratta di un investimento e di iniziare un tipo di operatività che poi noi ovviamente contiamo di estendere su tutti i canali. Ovviamente come ha detto il collega di Ubi, i possibili risparmi sono quelli che ha detto, sia in termini di carta, sia in termini poi di trasporto dei documenti, perché anche noi ovviamente dobbiamo successivamente scansionare i documenti cartacei per poterli avere poi disponibili sul sistema per gestire anche il rapporto con la clientela e il back office. Inoltre abbiamo anche, otterremo anche sicuramente un miglioramento per quelli che sono i processi di customer care sul punto blu, perché chiaramente questi sistemi poi snelliscono l'operatività dell'operatore e quindi ovviamente favoriscono anche il cliente anche in termini di tempi. Sì, chiarissimo. Senta, lei prevede quando verrà utilizzato questo sistema per firmare anche proprio il contratto vero e proprio del Telepass? Ma guardi, noi abbiamo un obiettivo per il primo semestre del 2012. Quindi tra pochi mesi, insomma. Esattamente sì, siamo allo studio con i nostri legali per cercare di trasformare i nostri contratti e per poterli poi rendere disponibili al sistema. Certo. Chiaramente nel risparmio dei moduli cartacei dobbiamo tener conto anche del fatto che questo sistema ci consente poi di poter aggiornare sostanzialmente in tempo reale, laddove ci siano delle modifiche contrattuali, senza dover far fronte come oggi magari alla distruzione di centinaia di, per non dire migliaia di moduli che sono nei nostri magazzini e che da oggi a domani diventano non più utilizzabili. Chiarissimo. Giorgio da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io più o meno volevo proseguire il discorso già fatto dal cliente avvenuto precedentemente, dicendo appunto che chi sottoscrive un tablet con una firma elettronica praticamente sottoscrive un testo che di per sé è variabile, nel senso che non è nel suo controllo il fatto che questo non possa essere variato. D'altronde storicamente la firma è nata per una mancanza di fiducia in un accordo verbale, quindi non vedo come uno possa sottoscrivere e dare fiducia nel sistema di controllo che ha la controparte, nel sistema di sicurezza, eccetera, eccetera. Cioè, quindi lei dice sostanzialmente la normativa italiana non è sufficientemente robusta per garantirmi che sia immodificabile. Esatto, cioè io mi devo fidare del sistema di sicurezza della controparte, questo è... Certo. Lei non si fida? Non è questione di non fidarsi, io mi fido. È una mancanza di fiducia tra le parti, no? Perché evidentemente si sottoscrive una firma qui, nel senso che non mi fido. È interessante, ma infatti le telefonate che arrivano sono anche insomma un po' lo specchio del paese e poi la causa della mancata competitività del paese, perché di fatto negli Stati Uniti c'è una diffusa fiducia molto più vasta, qua invece c'è una diffusa sfiducia e questo è un problema. Zanoli, sì, mi ha colpito molto questa ultima osservazione. È vero che la firma attesta la fiducia tra le controparti, però penso che l'ascoltatore abbia piena consapevolezza di quante frodi oggi vengono fatte per mancanza di firme, invalidazioni di documenti, firme copiate e ricopiate. Chi non ha falsificato una firma a scuola, tanto per capirci? Io no, però. Bravissimo. La cosa importante da dire è che le organizzazioni che mettono a disposizione questi sistemi rendono disponibile alla clientela, per quanto ne so io, per quelle organizzazioni che stiamo seguendo io lo stanno facendo tutte, corposa documentazione che deve proprio attestare questa fiducia in questa applicazione. Poi probabilmente, adesso però mancano 2 minuti e non facciamo più in tempo, le banche o comunque le organizzazioni potranno dire come vuole firmare, preferisce farlo in un modo o nell'altro. È così già ora. Okay. Dunque, un ascoltatore della serie, non siamo mai contenti, la firma elettronica non si può fare da casa e allora dobbiamo sempre spostarci, però abbiamo sentito quanti e quali sono i risparmi e naturalmente poi io spero che se questi risparmi vengono fatti dalle società, a cascata poi arrivino anche al consumatore finale, è una speranza naturalmente. Una cittadina portoghese, Elena, ci dice: da un paio di anni il rinnovo dei miei documenti di identità presso il consolato avviene con firma elettronica. Bene, grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, Walter Facchi, responsabile ricerca e sviluppo di UbiBanca. A presto, buon lavoro Facchi. Grazie, arrivederci. Buonasera. E grazie anche a Marco Carli, che è responsabile gestione clienti di Telepass. A presto e buon lavoro Carli. Grazie a voi, buonasera. Buonasera Carli. Io ringrazio per essere stato con noi Stefano Zanoli, che è direttore generale di Carta. Non è scritto come la carta tradizionale, perché effettivamente non lavorate sulla carta tradizionale. Metteremo un link sul nostro sito internet. Sì, prego. Il link giusto è carta SignDoc. È molto troppo complicato, lo mettiamo sul sito. Lo metterai internet. Sul sito, così tutti quelli che hanno chiesto informazioni anche sulla normativa e le questioni tecniche, lì troveranno tutte le spiegazioni. Bene, grazie per la vostra attenzione, come sempre l'attenzione dei nostri ascoltatori è preziosa, grazie anche a tutti coloro che hanno telefonato. Abbiamo la base che mettiamo. Ah! Questo è Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Non dimenticate di scaricare la versione podcast del nostro programma sul nostro sito internet www.radio24.it. Tra poco le notizie di GR24, noi torniamo la prossima settimana. 2024.